Maurice aveva subito ripreso la prima frase e insieme declamarono quell'ode a Félix, composta appositamente per salutare non molto tempo prima la grande notizia. Ufficiosamente si era diffusa in mattinata quando Ginette aveva aperto la busta del ministero che confermava la nomina di Félix al posto di ricevitore, al quale, a giusto titolo, ambiva da tanto tempo. Robert e Maurice avevano improvvisato i loro versi zoppicanti sull'angolo di un banco al liceo Louis le Grand e avevano portato l'ode appena sfornata in Rue de la Mar per recitarla a Félix in portineria, dove per una volta si dava una festicciola che doveva senza sbandare per ben servire le PT, calzare gli sci come in Russia e uccidere lupi come a Mosca. Più tardi era Barsky, molto prima era Trotsky, che consegnava i plichi che fecero di lui quel postino esemplare, il migliore dei ricevitori di tutto il fronte popolare. Questa era l'ode composta dai due ragazzi. Era nel giugno scorso, l'ode a Félix. Da allora non l'avevano più recitata e si complimentarono per la loro memoria. Erano passati 5 mesi. «Fu l'ultima festa prima della diaspora», disse Robert. «Ti metti a far man bassa del mio patrimonio folcloristico ora?» fece Maurice, sorridendo. «Resta sempre il migliore per parlare di cose non allegre. Non era allegra quella festicciola con tua madre, la mia e la madre di Zazà che facevano a chi piangeva di più. Josette che singhiozzava, mio padre che riceveva i rallegramenti ripetendo continuamente «Torneremo, torneremo!» mentre si sapeva perfettamente che era finita, no?» Robert si voltò verso la finestra. Maurice non disse niente. «Ti dicevo dunque che non ho un granché da dire, a parte che sono quel futuro professore, che non vedo la cupola dell'Accademia francese dalla mia finestra, che non bazzico l'intelligenza cosmopolita e che scopo tutte le volte che gli orari me lo permettono con la sorella dell'economo di cui non conservo la foto, ma che è di Le Havre. È bella rotondetta. Le sole belle straniere che io incontro sono quelle che guardo passare da lontano nel momento in cui si imbarcano sui grossi piroscafi delle Transat, dai tavolini del Loup de Mer, dove vado di solito prima di tornare nella mia cella di sorvegliante non politicizzato, in fondo a un dormitorio senza scale segrete. Dire che mi diverto molto sarebbe esagerato, ma è molto sano per lo studio. Ecco, ce ne andiamo a fare un giro nel quartiere? Quale? Il nostro, vorrei verificare la pulizia delle scale per poter fare un rapporto a mia madre. La tua mi darà qualcosa da sgranocchiare prima del mio treno? A che ora è il tuo treno? Verso le 9. E quando è che torni a Le Havre? Domenica sera. Vuoi sapere davvero perché vado a passare l'11 dicembre in famiglia? Perché gli vuoi bene, deficiente. Anche per questo, ma è soprattutto per assistere allo spettacolo che mi offrirà mio padre in veste di notabile che canta la Marsigliese avvolto nelle pieghe della bandiera tricolore davanti al monumento ai morti di Neuilly-le-Real vicino a Moulins. Non me lo voglio perdere. Robert sogghignò un po', poi guardando Maurice. Allora, si va? Andiamo, fece Maurice dirigendosi verso la porta. Passando, Robert si fermò ancora una volta davanti al caminetto. È un po' incasinato il tuo piccolo museo. Bisognerà che ti compri un album oppure un grande portafotografie. Ecco, ora lo so, esclamò Maurice battendosi la fronte con la palma aperta. Sono ore che sto cercando, da quando siamo usciti da quel vecchio pazzo di Moreau. Ora lo so dove l'avevo visto prima, quel tizio. Quale tizio? Un tizio sulla foto, ti spiegherò. Ci si va di corsa a Rue de la Mar, disse Robert tirandolo per la manica. E lei non ha mai raccontato questa storia a mio padre, signor Gutmann? Chiese Robert a mezza voce. No, figliolo mio, era una storia di famiglia, capisci? Disse Elia. Aveva ripiegato il sudicio quadratino di carta che mise accanto all'immacolato rettangolo di carta quadretti sul quale si leggeva in cirillico l'indirizzo di Poltava tra un puntino nero e il cuore pieno di nomi. Li rimise nel portafoglio. La lettera del signor D. di Zurigo rimase aperta sul tavolo accanto alla cornice dei nostri smontata. «Una storia di famiglia che tu non hai raccontato neanche alla famiglia, papà», fece Maurice con voce talmente strozzata che si sentiva appena. Teneva tra le mani la foto di Valodia e Lia scosse il capo. «Era triste e complicato per la vostra età», spiegò senza rialzare gli occhi. «Ma mio padre, lui ce l'aveva l'età», disse Robert. Sai, figliolo mio, con tuo padre era difficile parlare a volte. A tuo padre non piacevano i fratelli Mercier per via di Bloom. Allora, quando si parlava insieme, quando per esempio non arrivavano le notizie dell'Ucraina, vedevo bene che lui pensava che erano i miei padroni che mi montavano il cranio. Mi montavano la testa o mi imbottivano il cranio. Bisogna scegliere, papà, corresse Maurice con una certa cattiveria. Di come vuoi tu, figlio mio, disse Lia. Ma insomma, papà, il tuo cugino Valodia era un ebreo, ucraino e comunista, no? Se non fosse stato comunista, non l'avrebbero lasciato venire a Parigi per testimoniare contro Pietro, no? Naturalmente. E allora? Fece Lia. Robert guardò Maurice, tese la mano verso la lettera da Zurigo del signor D. Signor Gutmann, ma lei lo sa dove si trova Irkutsk, vero? E Lia fece cenno di no. È in Siberia, signor Gutmann. E quello che cerca di dirle la lettera di questo signore di Zurigo è che il suo cugino Valodia, ebreo, ucraino e comunista, è stato mandato in Siberia subito dopo averla vista a Parigi e che ne è morto. È questa lettera che avrebbe dovuto far vedere a mio padre, signor Gutmann. Robert aveva l'aria disperata. Ah, non avrebbe cambiato nulla, disse Lia. Era troppo tardi in ogni modo. Forse non per mio padre, mormorò Robert. E questa l'avevi letta, papà? Chiese Maurice, che aveva scoperto la didascalia che una volta il signor Florian aveva accuratamente ripiegata per dissimularla sotto la foto di Valodia. Rimetti a posto tutta questa roba prima che tua madre risalga, disse Lia prendendo la foto dalle mani di Maurice. Sarà furiosa se si accorge che le hai preso la sua cornice dei nostri Daibonè. Dai, sbrigati! Sto per compiere 19 anni, papà, dichiarò Maurice guardando Lia bene in faccia. Ci fu un breve silenzio interrotto da Robert. Bisogna che vada a prendere il treno. Ti accompagno, gli disse Maurice alzandosi. Abbraccia i tuoi genitori e Josette, figliolo, fece Lia stringendo la mano di Robert. Allora tocca a me mettere a posto, da quel che vedo, soggiunse scuotendo il capo. E si concentrò sui piccoli fermagli d'ottone della cornice dei nostri. Ciao, papà, disse Maurice. Il tuo negozio chiude domani? Sì. Papà, la libreria è chiusa, confermò alzando gli occhi al cielo. Una libreria è un negozio, no? Allora vieni a trovarci. Nessuno lavora domani in famiglia, neanche Zazà. Lo so, papà. Comunque telefonerò. Va bene, disse Lia senza alzare la testa. Robert e Maurice erano già sul pianerottolo. Davanti alla porta dei Bonnet esitarono, ma sentendo dei grandi scoppi di risa maschili e femminili, rinunciarono a suonare. Non hanno ancora finito, disse Maurice. Le saluterò per te, andiamocene. Avevano già superato l'Alverniat, verso il quale non si erano voltati né l'uno né l'altro, quando Maurice disse infine qualcosa. Con tutto ciò non hai neanche mangiato. Ah, prenderò un panino alla stazione, non sono veramente in ritardo, sai, e poi non ho neanche veramente fame. Lo so, disse Maurice fermandosi. Si avvicinò a un muro, contro il quale si appoggiò con tutte le forze e con la testa nascosta tra le braccia si mise a piangere. Robert aspettò senza muoversi e senza guardarlo. Passarono alcuni minuti, poi Maurice lo raggiunse. Sono un fesso, eh? Ma era un'ora che mi trattenevo. Ora va meglio, disse sforzandosi di sorridere. Ripresero a camminare verso Rue des Pyrénées. Ci permetteremo un taxi per una volta, non ho voglia di vedere la faccia della gente nel metrò, disse Robert. L'autista era molto chiacchierone, molto patriota, molto contento delle bandiere che fiorivano lungo tutto il percorso, molto contento che non ci fosse più Blum e molto contento di Monaco che aveva permesso quel bel 11 novembre dell'indomani. Così avrebbero visto. Stronzo, mormorò Robert dopo essere sceso dal taxi. Va bene, c'è tempo, disse consultando il quadrante della torre quadrata della Gare de Lyon. Passò uno strillone con un'edizione straordinaria di Paris Soir. Si vedevano in caratteri cubitali in prima pagina i nomi di von Rath e di Grinspan. Grinspan? Herschel Grinspan? Non è mica ebreo? Chiese Maurice a Robert con l'accento di Sonia. Sei ignobile, disse Robert scoppiando a ridere. Per il tempo che ci resta da passare insieme, è meglio per te che la prenda a ridere. Hai visto che succede quando non lo faccio. Mentre Robert prendeva il biglietto per Moulin e un biglietto d'ingresso, Maurice andò a prendergli un panino al buffet. Si fermarono un attimo davanti a un'edicola. Vuoi che ti regali una piccola nausea, gioia mia? Ecco, propose Maurice. Ah, sei come il vecchio Florian, tu. Non sei aggiornato nelle novità letterarie. Sono almeno 2 mesi che l'ho letta. E nel vero ambiente, per di più. La Bouville del suo libro è Le Havre. Era professore di filosofia nel mio liceo, Sartre. Davvero un peccato per me che se ne sia andato prima che arrivassi. Si allontanarono dall'edicola. Robert riprese. Con che cosa l'avevamo cambiata poi la condizione del vecchio Florian? Non l'abbiamo cambiata. Ci siamo fatti rimborsare il prezzo dal libraio come degli sporchi individui. E come degli sporchi individui non siamo neanche mai andati a trovarlo a casa sua, il vecchio Florian. Povero vecchio, quando penso a quanto si è dato da fare per ritrovare Vladimir. Perché dici Vladimir? Perché era il suo nome. I Vladimir da noi, quando gli si vuol bene, si chiamano Valodia, disse Maurice. Salgo qui, fece Robert fermandosi davanti a un vagone di terza. Beh, shalom, ebreo ucraino. Posò la mano sui ricci neri di Maurice e gli assestò 3 pacche sulla testa. Che navò? Rispose Maurice guardandolo salire in treno. Le 8 note della ballata di Lorelei Hardy lo fecero avanzare verso il quarto finestrino del vagone a cui Robert ricomparve quando il treno cominciava impercettibilmente a muoversi. Ci fu un lungo fischio di locomotiva. «È il solo cianuro che resta! Non me lo perdere!» gridò Robert ridendo e afferrando la mano che gli tendeva a Maurice. «Ce l'ho!» rispose Maurice lasciandogli la mano e fece finta di mettersi qualcosa in bocca. Robert gli fece un ultimo cenno del capo e rientrò nello scompartimento. Prima di uscire dalla stazione, Maurice comprò l'ultima edizione di Paris Soir. Sotto gli articoli che riraccontavano gli ultimi istanti del consigliere von Rath, ai quali avevano assistito impotenti i parenti e il medico personale di Adolf Hitler, accanto a una breve rievocazione delle circostanze dell'attentato e dell'identità dell'omicida, Herschel Greenspan, giovane israelita polacco di 17 anni, si diceva che la sua difesa sarebbe stata assicurata dall'avvocato Harry Torré. Maurice trovò allora quello che cercava. Era un dispaccio dell'ultima ora, il quale annunciava che, contrariamente a quello che si era potuto pensare il giorno prima, l'incendio che aveva devastato la sinagoga della cittadina tedesca di Helmsdorf non era stato accidentale. Su tutto il territorio tedesco, dopo la conferma del decesso del signor von Rath, si erano già contati 9 incendi di sinagoghe, tutti scoppiati nella notte dal 9 al 10 novembre. Mentre insieme era cominciata la sistematica distruzione di tutte le vetrine di negozi tenuti da cittadini tedeschi di confessione israelita. Diceva l'articolo: nell'ora in cui andiamo in macchina, vale a dire a poche ore dall'11 novembre, il fracasso dei vetri che vanno in frantumi è tale che i passanti fanno fatica a sentirsi parlare nelle vie delle grandi e piccole città del Reich. E a forza di camminare su frammenti di vetro, la popolazione tedesca ha trovato un nome di battesimo per le convulsioni spontanee, tra virgolette, di collera di questa notte. Qui già la chiamano di Kristallnacht, il che vuol dire notte dei cristalli. Come si vede, la poesia non perde i suoi diritti nella patria di Goethe. Maurice ripiegò il giornale che aveva letto fuori, sotto la tettoia della stazione. Fu sul punto di buttarlo, ci ripensò. Ritagliò il pezzo che conteneva il dispaccio, se lo ficcò in tasca, appallottolò il resto e lo buttò nel rigagnolo. Scendendo gli scalini del metrò, esitava ancora sulla direzione da prendere. Era a mezza via tra Pirenè e Odéon. Aveva una gran voglia di tornare in Rue de la Mare, solo il tempo di entrare e di uscire, semplicemente per stringere fra le braccia suo padre e sua madre molto forte e dir loro qualcosa di sciocco come: «Vi voglio bene, non abbiate paura, sono qua io!» Poi si disse che li avrebbe spaventati a morte tornando così presto. Sarebbe andato domani, era più ragionevole. Stasera rischiava di lasciarsi sfuggire qualche stupidaggine. Domani ci sarebbe stata Zazà a casa, del resto era Zazà che doveva vedere. Bisognava che la trovasse subito. E si decise per Odeon. A quell'ora doveva essere ancora a tavola con i suoi amici del cinema. Attraverso la porta di Cheramì la vide di schiena. Un tizio seduto accanto a lei teneva il braccio sulla spalliera della sua seggiola. Di fronte a loro Alex parlava con una donna che Maurice non conosceva. Fu proprio Alex il primo che lo vide quando lui ebbe spinto la porta. «Hai mangiato?» si informò Zazà. Maurice fece cenno di no col capo. Baciò Zazà a bocca chiusa, sulla bocca chiusa. strinse la mano di Alex mentre questi gli presentava Angelina Crespi e Laurent Verdon. Maurice Gutmann, disse, mentre i clienti vicini da un lato e Angelina Crespi dall'altro, stringendosi ad Alex, gli facevano posto sul sedile. «Avete letto i giornali?» chiese rivolto alla tavolata. «Abbiamo avuto di meglio», rispose Zazà. «Mimì mi ha telefonato stanotte da Berlino, ha messo il ricevitore alla finestra della sua camera d'albergo e ho ascoltato per 3 minuti di comunicazione internazionale. Poi Mimì ha ripreso l'apparecchio e mi ha detto «Senti?» e io le ho detto «Sì» e lei mi ha detto «Ti abbraccio forte, carissima, e sono contenta che tu non sia qui per vedere quello che vedo io». Laurent Verdon prese il polso di Zazà e le baciò il cavo della mano. Cherami portò il piatto di maiale alle lenticchie, che era il piatto della sera scritto col gesso su una lavagna attaccata al banco. «Un quarto?» chiese. «Un quarto», fece Maurice, poi rivolgendosi a Zazà. «E hai raccontato stamani a casa della telefonata di Mimì?» «Certo che no». «E ha fatto bene», approvò Alex. «Mi ci sono voluti anni per rassicurarle le vostre due madri. Voi eravate ancora in fasce quando ho cominciato a insegnare loro a ridere. Non mi smantellerete tutta la baracca ora che siete grandi». «Non siamo noi a smantellarla, Alex, la sua baracca. E le assicuro che oggi c'è comparsa una bella crepa», rispose Maurice cominciando a mangiare. Tutti aspettavano che aggiungesse qualcosa. «Di un po', Zazà, un tizio tutto ricucito che sorride e si mette la mano davanti al viso come per proteggersi?» «Mi dice qualcosa», fece Alex. «Ricomincia?» disse Zazà. «È un cugino», disse Alex ridendo. «Ma non un mio cugino, tuo o tuo», aveva toccato la spalla di Maurice, poi quella di Zazà come a ricreazione quando si fa la conta. «Il signor Grandi ha vinto il primo premio, la signorina Roginski non ha vinto un bel niente», esclamò Maurice. «Del resto neanche il signor Gutmann aveva vinto niente fino a questo pomeriggio. Ma grazie alla divina provvidenza, non quella urbana, quell'altra, quella vera, ha potuto portare alla luce uno di quei segreti che le famiglie credono sepolti perché sono protetti dal sottile spessore di un portafotografie che i bambini non guardano mai». «La cornice dei nostri!» esclamò Zazà. «Ne ha conservati ben altri di segreti, la cornice dei nostri, delle vostre madri», mormorò Alex con un sorriso bizzarro. «Ah sì?» chiese Angelina. «Abbiamo tutti un passato, bella mia», seguitò Alex rinfilando una forcina di tartaruga che si staccava dal pesante chignon scuro di Angelina. «È vero», disse Angelina con un dolce sorriso sul suo viso non truccato. Aveva degli occhi molto allungati, di un grigio chiaro, e qualche rughetta smentiva la giovanile freschezza del suo sguardo. Portava un pullover nero a collo alto troppo largo e Maurice riconobbe quello che aveva visto tanto spesso addosso ad Alex. «Allora, questo cugino?» fece Alex. «È tuo o è tuo?» «È mio, ma la sua storia è di tutti e due, vecchia mia», rispose Maurice guardando Zazà. «Noi, se ho ben capito, non ci riguarda?» chiese Laurent Verdon. «Riguarda tutta quanta la terra», esclamò Maurice. «E senza omettere niente, a partire da lei mi fa pue pue, fino alla derisoria partecipazione del signor D da Zurigo, Maurice raccontò tutta la storia di Valodia». La coppia, seduta al tavolo vicino, a poco aveva smesso di parlare. Ascoltavano Maurice senza guardarlo, ma si scambiavano frequenti occhiate spazientite. Si alzarono dopo la lettera di Zurigo e, arrivati davanti alla porta, l'uomo fece passare davanti la sua compagna, la lasciò uscire, poi fece un passo verso la tavola. «Ammettiamo che la sua storia sia vera, il che resta comunque da dimostrarsi. Lei è un bel mascalzone a divulgarla in questo momento», dichiarò a Maurice prima di uscire, sbattendo la porta. Maurice si alzò. «Non ti muovere», disse Alex, alzandosi a sua volta. Maurice era già davanti alla porta che stava riaprendo. Alex lo respinse e uscì sul marciapiede, richiudendosela alle spalle. «Fa male, Alex, a discutere con lui», disse Cherami, che aveva seguito tutto da dietro il banco. «Lo conosci?» chiese Laurent. «È venuto 2 o 3 volte. Ogni volta c'è stata una storia. Non lo prenderò più». Alex tornò col sorriso sulle labbra. «Mi ha trattato da fascista, quell'idiota», disse risedendosi. «Beh, non esattamente. Ha detto che raccontando di Valodia tu facevi il gioco dei fascisti. E io altrettanto standoti a sentire». «E poi?» chiese Angelina Crespi. «E poi sua moglie Ha detto che lei era ebrea, che aveva trovato odiosa la vostra storia di Puepue, che eravate dei maleducati tutti e due. Allora lui ha detto che lei confondeva tutto, che non era quello il problema, e ha parlato della Spagna. E lei si è messa a piangere e lui ha detto che non sarebbero più venuti a mangiare da te, riassunse Alex, voltandosi verso Cherami. Boh, capita a proposito, esclamò quest'ultimo. E allora? Chiese Angelina Crespi. Allora se ne sono andati tra le auto impazzite. E solo la notte udì le loro parole, recitò Alex. Ci fu un breve silenzio, durante il quale non si sentì più che lo stridere del canovaccio di Cherami che asciugava i bicchieri. È vero che capita a sproposito in questo momento la vecchia storia del povero vecchio Valodia, mormorò Maurice senza guardare nessuno. E soprattutto il povero giovane Valodia che è capitato nel secolo sbagliato, disse Angelina Crespi. Si cammina ancora un po'? Chiese Maurice. Erano sul boulevard Saint-Germain e Alex teneva Maurice per la spalla. Avevano lasciato gli altri davanti a Cherami, Zaza era salita nella macchina di Laurent Verdon e Angelina Crespi se n'era andata a piedi per conto suo. Alex le aveva detto «a fra poco» e aveva messo la mano sulla spalla di Maurice. Da allora camminavano ed era Alex a parlare. Parlava di cose gaie, futili e inutili, come si fa nelle famiglie per dissipare le paure di un bambino prima di mandarlo a dormire. Non era stato facile, e durante i primi 100 metri della loro passeggiata non avevano detto niente né l'uno né l'altro. Alex, che sapeva tanto bene come parlare a Sonia, a Olga e ora a Zazà, aveva dovuto cercare le parole per tranquillizzare quell'adolescente che aveva visto crescere senza mai guardarlo veramente, e le cui preoccupazioni da adulto e le pene d'uomo gli davano le vertigini. Poiché non erano state le sue e non lo sarebbero mai state, dovesse pur vivere 100 anni, pensava, strada facendo. Il silenzio si era rotto con una gran risata in fondo a Rue Jacob, davanti a un manifesto appena incollato, particolarmente bene illuminato da un lampione. Alla loro altezza, in piedi, sullo sfondo di un mare scatenato, grondando acqua dalla barba, dalla casacca e dal cappello di cerata, un temerario pescatore d'Islanda brandiva un biscotto gigante, sorridendo con tutti i denti in mostra. «Lui credette in Pomponette», recitava la scritta. Era stata cancellata con il gesso e una scritta in diagonale diceva, su tutta la larghezza del manifesto, «Allora, fratello Yves, essere buoni, pompon». A partire da quell'angolo di strada era cambiato tutto. Alex era talmente sollevato nel vedere e nel sentire Maurice che si sbellicava dal ridere, che era ben deciso a non mollare quel suo buon filone. Raccontò quindi dettagliatamente gli sporchi retroscena della vicenda alle Gogo, il cui gran merito ai suoi occhi era di aver procurato delle così belle vacanze ai ragazzi di Rue de la Mar. E poiché non soltanto Maurice continuava a ridere, ma forniva a sua volta testimonianze inedite sulle famose vacanze bretoni, invece di percorrere Rue de Seine sulla sinistra, erano risaliti fino al Boulevard Saint-Germain. Erano all'angolo del Boulevard Saint-Michel quando Maurice propose di continuare. Attraversarono. Maurice seguitava a ridere perché, dopo la spedizione Printemps Fusil, diventata da allora «prendi il tuo biscotto» nel vocabolario corrente della Copé, Alex aveva raccontato a modo suo la vita in via Chateaubriand. I turbamenti passionali e muti della signorina Agnès, le espansive infatuazioni di Ginette, le ragazzine, il laboratorio di cui Stepane era il re di un alveare felice e frivolo. «Si prende a destra?» fece Maurice, che continuava a sorridere, ma che apparentemente non ascoltava più Alex. «Se vuoi», disse Alex, leggendo il nome della strada. Era la Rue Thénard. Era molto breve e saliva ripida fino alla maestosa scalinata del Collegio di Francia. Fecero qualche metro, poi Maurice si fermò. «Era proprio come a casa sua, disse contemplando i 5 piani di un bel palazzo provinciale situato al numero 7 e indicò ad Alex un'insegna discreta con su scritto «At home, hotel pensione per universitari». «Di chi parli?» chiese Alex. «Pam, pue, pietlora», sogghignò Maurice. Alex non disse niente. «Deve rigirarsi di felicità nella sua tomba stasera. Chissà come risuona bene nel cimitero Montparnasse il cristallo ebreo tedesco che si rompe alla russa». È sepolto a Montparnasse? Chiese Alex dopo un breve silenzio. Una finestra si illuminò al terzo piano della pensione At Home. Guarda, forse è la vedova o l'orfana, mormorò Maurice tendendo la mano verso la luce. Sì, a Montparnasse. E domani andranno a portargli dei fiori al padre fondatore. Vieni, adesso andiamo via, fece Alex spingendo leggermente Maurice con la mano che non aveva tolto dalla sua spalla. È tardi, andiamo a dormire. Lasciarono la Rue Thénard. Io? Sì, andrò a dormire se posso, ma non lei, Alex. Lei ha un appuntamento? Gli dichiarò Maurice con un sorriso complice. Di un po', di che ti immischi te? Fece Alex dandogli un colpetto sulla spalla. Ah, di quello che non mi riguarda, ma ce l'avrà con me, Angelina. È tardi, come diceva, e lei lo aspetta. Capisce tutto, Angelina, disse Alex con un sorriso intenerito. Camminarono in silenzio. Che cos'era l'altro segreto della cornice dei nostri, oltre a quello dello Scarface ucraino? Allora Alex raccontò di Maddy. Beh, non tutto di Maddy. Raccontò di Maddy ai tempi del bel vestito e dei lustrini. Lustrini? I primi lustrini, quelli che si ritrovavano dappertutto, per le scale, nei letti pieghevoli, perfino nei cappelli di Josette. Quei lustrini lì. Di quelli, sì, se ne ricordava benissimo Maurice, tutto il quartiere se ne ricordava. E Maurice si rimise a ridere. E naturalmente Alex approfittò dei lustrini come aveva approfittato dei biscotti pomponette per sostenere il riso di Maurice come si sostiene fuori dall'acqua qualcuno che sta annegando. Chiamò alla riscossa tutti i ricordi che aveva conservato degli esordi di Sonia e Olga, all'occorrenza perfino ne inventò. Parlò di quattro crinoline insieme nelle piccole stanze da pranzo, fece entrare, uscire e rientrare la signora Loventhal molto più spesso di quanto non avesse fatto in realtà. Nei ricordi di Alex, il secondo piano di Rue de la Mare diventava una doppia cabina dei fratelli Marx. E siccome Maurice se la rideva sempre più, il fantasma di Maddy finì per scomparire dalla conversazione. Quando arrivarono in Rue de Seine, Maurice continuava a ridere. Alex non aveva avuto il tempo di dirgli che colei che portava i lustrini, che lui aveva amato, era morta, né come era morta. Ancor meno, naturalmente, che ad appena 100 metri dalla fossa in cui riposava si innalzava il mausoleo del presidente Pietlura, che a quell'epoca crollava già sotto i fiori. Ancora 10 anni dopo la sua morte, appena 3 anni prima della Notte dei Cristalli. Parte 7. Lontano dal cuore. La neve cadeva talmente fitta che Maurice si alzò per chiudere le due finestre con la spagnoletta. Lo fece molto piano. Nessuno dei bambini si svegliò. Fu allora che ripensò al disegno. Rivide Zazà che lo tirava fuori di tasca, lo spiegava, glielo faceva vedere, ma non la vedeva mentre lo riprendeva per rimetterlo in fondo alla tasca del suo grembiule. Dovevano averlo lasciato in giro da qualche parte dopo la discussione. Invece di rinfilarsi a letto, si sedette, si infilò i calzini di lana grossa, si mise il pullover sul pigiama e al chiaro di luna che illuminava perfettamente la grande stanza, sfilò davanti ai 6 letti da campo, dove solo le teste addormentate dei bambini emergevano dai sacchi a pelo. Si fermò sopra il viso di Lulù. Quando dorme, assomiglia proprio a Samì, si disse come ogni volta che la guardava dormire. Uscì dal dormitorio, richiuse la porta senza rumore e scese le scale di marmo. C'era ancora un bel calduccio sotto le volte della sala. La cucina economica non si era spenta. A tastoni trovò l'interruttore della grande lampada. Il disegno era lì, spiegato. Spiccava, rosso, giallo e nero, sull'incerata bianca della lunga tavola a cavalletti. Era una donnetta come la disegnano tutti i bambini di 5 o 6 anni, senza naso, ma con gli occhi, una bocca, delle orecchie gigantesche e una gran quantità di capelli neri scarbocchiati intorno a un circolo sbilenco, posato sopra un rettangolo rosso dai cui lati partivano due bastoni neri prolungati da due pallottole con gli aculei come ricci, e in basso altri due bastoni, talmente lunghi che sul foglio di quaderno non c'era più posto per disegnare delle scarpe. Al centro del rettangolo, una specie di sole grosso, quasi come la testa, faceva una specie di sputo dorato sul rosso sangue del vestito della donnetta. Tra le due gambe senza piedi si poteva leggere «Mamma», tracciato a grosse lettere con una matita gialla. Maurice prese il disegno, lanciò un'occhiata su una porticina di quercia nera incastrata nella pietra a destra del caminetto. Ascoltò. Non si muoveva niente. Ripiegò la carta in quattro. L'indomani mattina avrebbero cercato di sapere chi aveva disegnato la donna trovata da Zazà nel pomeriggio spazzando sotto i letti, tra quello di Lulù e quello di Dedè. Maurice sosteneva che Lulù era troppo piccola per ricordare. Zazà sosteneva il contrario. Si sarebbe stati a vedere. Comunque non si doveva lasciarlo in giro sul tavolo, soprattutto se si voleva che scrivessero le loro lettere. Decise di andare a mettere il disegno nella borsa di Zazà.